Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo al primo appuntamento settimanale insieme all'Adico di Mestre, Associazione Difesa Consumatori. Torno io appunto con le ferie di Francesco alla conduzione di questa rubrica. Lo ritrovo con piacere il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Nico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, siamo spesso in viaggio, tanti usano il mezzo proprio, tanti usano anche i mezzi pubblici. È successo un disguido ad un utente della CTV, specificamente una casalinga di Mestre. La partenza brusca del mezzo l'ha fatta cadere, ha avuto un problema ad una spalla. La vicenda risale a più di un anno fa, ma adesso fortunatamente si è arrivati a soluzione. Sì, Mirko, si è arrivati alla soluzione. Come ha detto la persona, la nostra socia si è rivolta all'Adico esattamente nel maggio del 2014. Noi ricordiamo che abbiamo anche uno sportello dedicato a queste disavventure, che denominato Risarcimento Diretto, la quale è rimasta coinvolta in un incidente, definiamo così, all'interno di un autobus, per cui nel momento in cui la signora stava obliterando il biglietto, per effetto di una partenza brusca, ha perso l'equilibrio, è caduta rovinosamente a terra e si è anche lussata una spalla, e conseguentemente ha pensato di rivolgersi a noi per capire se aveva dei diritti e dei doveri nei confronti della società che in questo caso garantiva il servizio. E ad oggi, con soddisfazione, possiamo dire di essere arrivati a un felice epilogo della vicenda. Quindi ha avuto un risarcimento molto più, immagino, del biglietto che aveva pagato, anche per compensare questa prognosi che insomma per una spalla deve essere stata piuttosto lunga. Beh, allora innanzitutto, Nico, per raccontarti esattamente cosa è successo, dobbiamo appunto ritornare indietro nel tempo. Il 14 maggio la signora, mentre glitterava, appunto caduta a terra. E è vero che in questo caso vogliamo essere precisi a dire che la signora ha subito veramente una lussazione alla spalla documentata da un referto rilasciato al pronto soccorso, ma anche da molti testimoni che, in presenza di quanto accaduto, l'hanno consigliata di rivolgersi all'azienda per ottenere un risarcimento. Chiaramente la signora, una volta arrivata nei nostri uffici e ha raccontato la caduta, noi non abbiamo esitato a mandare una diffida legale, in questo caso alla CPV, facendo presente quello che era accaduto e chiedendo anche un'adeguata cifra che potesse in certo qual modo soddisfare sia la persona che l'azienda e concludere appunto con una somma ragionevole, in questo caso 3.500 euro, i disagi che ha ricevuto. Quali resistenze, se ci sono state, da parte dell'azienda? Innanzitutto le resistenze ormai sono quasi dire, anche con una velata ironia, un po' d'obbligo. L'azienda non fa altro che passare la palla alla loro assicurazione, di conseguenza si apre un sinistro, comincia a diventare un gioco forza tra le parti, ma di fronte a quello che è il materiale prodotto dalla signora e soprattutto all'ottimo lavoro svolto dai nostri uffici, certamente non hanno potuto fare altro che constatare l'evidenza e giungere a un equo riconoscimento che permettesse all'azienda un ulteriore esborsi alla collettività, ma a una conclusione, in qualche modo possiamo dire, bonaria, anche se poi tanto bonaria devo dire non è stata, ma che comunque ha visto la soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti in questo incidente. È un tempo ragionevole, poco più di un anno, per una vicenda del genere, per arrivare appunto a una soluzione? Sì, allora bisogna dire comunque che quando la vicenda è accaduta, per effetto delle prognosi e delle cure, la signora è andata avanti oltre 6 mesi a fare tutta un'attività curativa e riabilitativa che non ha potuto permettere ai nostri uffici di poter intraprendere un'azione fin tanto che non aveva una conclusione, un quadro generale di quella che era una situazione documentata. Dopodiché possiamo dire che nel giro di 6-7 mesi al massimo, per effetto anche di quelli che sono un po' i canali che l'Adico ha con gli enti di una certa rilevanza, tutto sommato il tempo può ritenersi abbastanza congruo. consigli che possiamo dare, dovesse capitare anche a qualcun altro, insomma, può succedere soprattutto agli anziani, ma anche magari i giovani, se non stanno ben attenti, magari sono in piedi, il mezzo è in partenza, cosa si può fare, non sul momento ovviamente, ma in seguito? No, innanzitutto il monito che io voglio dare su questo fatto è non ricercare appunto vie facili per ottenere rimborsi magari inesistenti, perché come ho detto la signora in questo caso ha avuto molti testimoni che l'hanno sopportata e aveva anche molto altro materiale rilasciato sia dal punto del soccorso che insomma, da altre persone nel caso dell'incidente. Lo stesso autista, il stesso conducente che in questo caso è stato colpevole di questa brusca partenza ha evidenziato nel verbale come insomma è stato un po' troppo solerte a partire. Detto questo, comunque tutte le persone devono sempre tener conto che ovunque si trovano, quando si trovano anche presso per esempio un centro commerciale, come per esempio all'interno di un pullman o in altre realtà, sono un po' in custodia, questo per far passare un termine significativo, e perciò chi custodisce la persona ha anche l'obbligo di insomma, garantirne l'integrità, e pertanto se dovesse mai capitare delle situazioni come questa della signora, non esitare magari a fare come la signora, rivolgersi ai nostri uffici che offrono insomma questi servizi di consulenza anche gratuitamente se si è soci, e poi verificare con i nostri esperti quello che può essere un quadro generale della situazione, se ci sono presupposti per fare qualcosa. Ricordiamo allora associazionedifesaconsumatori.it per casi specifici come questo, anche per altre situazioni che racconteremo nel secondo appuntamento di questa settimana tra due giorni. Grazie al presidente Adico Carlo Garofolini, buona giornata. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.